Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che dal marzo 2012 prova a interpretare attualità, cultura e stili di vita considerando l'interesse di tutti i viventi, considerando quindi anche le vite non umane come degne di considerazione e di rispetto. In questa puntata parleremo delle proposte di Stella McCartney per una moda cruelty free, in particolare per un materiale innovativo che sembra pelle, e della greve replica dell'Associazione dei Conciatori a questa proposta, di una campagna di Greenpeace contro gli allevamenti intensivi, dell'insostenibile menù dei delegati riuniti a Glasgow alla 26esima conferenza sul clima, della massiccia presenza proprio a Glasgow di lobbisti al servizio delle energie fossili e infine daremo due brevi notizie dal mondo del circo. Ci saranno, come sempre, ottima musica e una ricetta di cucina cruelty free. Speriamo di avervi incuriositi. Della moda sarà sostenibile e a base di materiali alternativi. Questa è l'idea della stilista Stella McCartney, che ha presentato alla COP26 di Glasgow una mostra dal titolo inequivocabile Future of Fashion, cioè il futuro della moda, in cui sono esposti materiali innovativi e cruelty free. Niente più pellicce, pelle di animale o tessuti sintetici colpevoli di rilasciare microfibre in mare. Stella McCartney, la figlia di Paul McCartney, uno dei componenti della storica, gloriosa band dei Beatles, da anni sta sperimentando alternative alla pelle realizzate con funghi. A marzo ha presentato i primi abiti ottenuti dal micelio e ora espone in mostra nuove creazioni sempre più sostenibili. Insieme alle creazioni realizzate con una pelle non animale a base di funghi, ci sono anche le prime scarpe da calcio vegane realizzate insieme ad Adidas, i capi in nylon ottenuto dalla plastica recuperata dagli oceani e abiti di cotone capace di rigenerarsi. Alla mostra ha partecipato anche il principe Carlo d'Inghilterra e l'attore hollywoodiano Leonardo DiCaprio. La proposta è indirizzata a un pubblico vasto, a quella parte della società desiderosa di contribuire a un'industria della moda innovativa, più rispettosa dell'ambiente, in grado di proporre materiali di nuova concezione. Lo spazio esibizione di Stella McCartney ha ospitato anche conferenze e discussioni di giovani leader del climate change. Quindi Stella McCartney cerca anche di fare rete con le nuove generazioni più consapevoli dal punto di vista ambientale. Incontrare i leader mondiali mi ha ulteriormente convinta a voler contribuire a un'industria della moda più rispettosa del pianeta, ha commentato la stilista portavoce della sostenibilità. Le decisioni che verranno prese qui avranno risvolti sulle generazioni a venire. Dobbiamo quindi agire ora, prima che sia troppo tardi. Il mio obiettivo è semplice: aumentare gli investimenti privati, gli incentivi governativi e l'innovazione e ridurre l'impatto ambientale. Dunque Stella McCartney non lascia fuori nessuna strada. La McCartney ha apertamente accusato i prodotti in pelle animale di essere, oltre che crudeli, anche troppo inquinanti. E questa accusa non è piaciuta al settore conciario, quel settore che è stato recentemente alla ribalta per certe indagini imbarazzanti su presunte pressioni politiche e presunti veleni illegalmente riversati nell'ambiente. Dobbiamo far sapere alla gente che centinaia di milioni di animali vengono uccisi ogni anno per la moda, per la pelle e per le colle animali. La moda è una delle industrie più dannose per il pianeta, ha sostenuto la figlia di Paul McCartney, che di mestiere appunto fa la stilista sostenibile. Stella McCartney ha veramente rotto le scatole, continui a fare le sue borse in plastica e ci lasci in pace. Sono anni che subiamo i suoi attacchi, ora basta. Questa è stata la replica sintetica e piuttosto greve della presidente di Linea Pelle, l'associazione che riunisce le imprese conciarie. Non si uccidono gli animali per ottenere la pelle. Il 100% della pelle che noi utilizziamo in conceria proviene dalla macellazione dove gli animali si uccidono per la carne. La conceria svolge un'azione ecologica di fondamentale importanza nel processo di recupero dei materiali, perché le pelli andrebbero smaltite, dato che sono uno scarto putrescibile. I conciatori, quindi, secondo Fulvia Bacchi, hanno una forte missione ecologista di riciclaggio e riutilizzo di un prodotto di scarto, nonostante ammetta lei stessa che il settore dovrebbe mitigare l'impatto ambientale dei processi produttivi e ridurre i prodotti chimici, le risorse di acqua e di energia impiegate. Ma, ribadisce Bacchi, la tecnologia ci aiuterà e la pelle esiste da sempre e dunque continuerà a esistere. La difesa di Bacchi vira poi sul solito argomento, le maestranze, i lavoratori e la necessità di tutelare posti di lavoro. Siamo stanchi dei paladini che vogliono salvare il mondo, conclude polemicamente. Ci siamo fatti carico dei problemi dell'ambiente già da molti anni prima che la signora McCartney ce lo ricordasse. Quindi, in sostanza, secondo i conciatori, niente può cambiare, le tradizioni sono intangibili, non importa quale sia il costo ambientale e sociale che tanto pagheranno sempre gli altri. Dal sito internet di una delle più famose organizzazioni non governative che si occupano di ambiente prendiamo la prossima notizia. Ferma gli allevamenti intensivi. È questo l'obiettivo di una campagna targata Greenpeace contro gli allevamenti, perché quello che mangiamo oggi determina il mondo di domani. Non mettiamo il pianeta nel piatto. Non si tratta di una campagna antispecista, sia chiaro, per noi nessun animale andrebbe allevato, né con le buone, né con le cattive maniere, né al chiuso, né all'aperto, perché la libertà di un vivente per noi non è negoziabile. Però è una campagna utile, perché consente di parlare di un argomento scottante che imbarazza, dato che tutti sembrano voler mangiare carne e derivati, ma nessuno vuole avere sulla coscienza i numeri dell'olocausto animale. Che invece va detto, da quando esiste il consumo di massa e gli allevamenti intensivi è aumentato in modo vertiginoso, raggiungendo cifre da capogiro. Per darvi un'idea, ecco i dati di Greenpeace. 75 miliardi sono gli animali macellati nel mondo ogni anno. E pensate, in una sola regione italiana, la Lombardia, sono stipati nei capannoni degli allevamenti intensivi 4 milioni e 300 mila maiali e 1 milione e mezzo di bovini. Non sono numeri da fantascienza, è la fotografia dell'attuale modello di produzione intensivo del cibo, un sistema che alimenta sofferenza animale e deforestazione e che devasta gli equilibri della natura. Inoltre una bomba biologica a tutti gli effetti, sottolinea Greenpeace, della quale abbiamo sperimentato la potenza. Infatti il 70% delle malattie infettive emergenti, come SARS, Ebola, influenza suina e aviaria, provengono dagli animali. E gli animali allevati sono in grado di trasmettere agli esseri umani un grande numero di virus, come i coronavirus e i virus dell'influenza. In questo momento, per esempio, è in corso un allarme aviaria, sia in Lazio che in Veneto. E un'inchiesta del Guardian ha rivelato che un numero spaventoso di animali è stato abbattuto per fermare l'emergenza aviaria in vari paesi del mondo, con casi di spillover tra volatili ed esseri umani. A quasi due anni dalla pandemia Covid, che ha sconvolto le nostre vite, questo non è più accettabile, sostiene Greenpeace. Dobbiamo pretendere decisioni per la salute delle persone e del pianeta. La cruda verità è che finché si finanziano gli allevamenti intensivi con fondi pubblici, queste fabbriche di carne continueranno a crescere, a espandersi e a generare sempre più sofferenza animale, deforestazione, inquinamento e rischi ambientali e sanitari. Greenpeace, con la sua petizione, chiede al governo italiano di fermare i fondi pubblici per gli allevamenti intensivi, fermando così anche le loro conseguenze disastrose per gli animali non umani, per gli umani e per l'ambiente. In Italia il governo riempie i suoi discorsi di parole come green, sostenibilità, transizione ecologica. Queste sono ancora le parole di Greenpeace, ma alla prova dei fatti dimostra di voler prendere solo qualche tiepido provvedimento, senza affrontare il vero problema, ovvero la necessità di ridurre il numero di animali allevati. Vi raccomandiamo quindi di firmare per la campagna di Greenpeace. Per farlo potete digitare www.greenpeace.org/Italy e all'opzione Attivati nel menu principale potete facilmente arrivare alla campagna Ferma gli allevamenti intensivi e firmarla. Metteremo anche un link nel nostro blog che, lo ricordiamo, è www.restiamoanimali.it. Credere ai grandi della Terra non c'è mai venuto tanto naturale e dopo questa notizia la fiducia registra un altro minimo storico. A Glasgow, dove si è tenuta la conferenza sul clima COP26, i potenti della Terra si sono incontrati a discutere i prossimi obiettivi per ridurre le emissioni globali di gas serra. Però, tra una riunione e l'altra, si sono rimpinzati di carne, pesce e latticini. La conferenza sul clima aveva già fatto discutere per il viavai di politici arrivati con decine di jet privati, ma a far assottigliare ulteriormente le speranze di un impegno serio sull'ambiente è stata anche la scelta alimentare dei delegati. Qualcuno ha giustamente voluto sapere cosa stavano mangiando, anche perché il settore agricolo ha un fortissimo impatto sull'ambiente, pertanto è normale che il menù sia un indagato speciale. Ebbene, tutti i pasti comprendevano diversi tipi di carne, di pesce e di latticini. Metà delle pietanze servite era a base di carne, un alimento con un'impronta di carbonio veramente alta. Ogni porzione supera di gran lunga 0,5 kg di CO2 indicati come etici, toccando anche tetti massimi di 3,4 kg di CO2 a porzione. Ulteriori perplessità ha destato l'uso smodato di salmone, un altro prodotto da allevamenti intensivi a rete aperta che hanno causato gravi danni ambientali in tutto il mondo. Queste pratiche sono state tra le prime cause dei cambiamenti climatici e della crisi ambientale che ci sta investendo. Allevare animali a scopo alimentare infatti richiede un utilizzo intensivo di terreni, di cibo, di energia e di acqua, risorse che devono essere impiegate senza sosta per garantire una produttività che risponda alla domanda dei consumatori. In conclusione, l'effetto a catena che viene innescato dalla dieta carnista causa danni a tutto l'ecosistema, fino a raggiungere la barriera corallina e il circolo polare artico. Gli allevamenti intensivi sono responsabili di circa il 18% delle emissioni di gas serra a livello globale, le stesse che la COP26 si propone di dimezzare entro il 2030. Ed è imbarazzante la disinvoltura con cui, durante e dopo discussioni che riguardano argomenti così seri, si possa andare a tavola spensieratamente e comportarsi come se andasse tutto bene. Il clima è impazzito. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, parla di catastrofe. E i grandi della Terra cosa fanno? Pasteggiano con carne e pesce al summit sul clima. Torna in mente quella notte tra il 14 e il 15 aprile 1912, quando il transatlantico Titanic naufragò dopo la collisione con un iceberg e 8 musicisti continuarono a suonare fino all'ultimo momento per contenere il panico. report.it abbiamo trovato un'altra notizia seria e inquietante che riprende un comunicato dell'agenzia di stampa La Press. L'articolo si chiede quale sia la delegazione più numerosa alla 26esima conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici COP26 di Glasgow. Ebbene, la delegazione più numerosa che ha partecipato è stata quella dei rappresentanti degli interessi delle compagnie che investono o producono combustibili fossili. Sembra una contraddizione, ma è proprio così. A sostenerlo, riporta La Press, sono 4 organizzazioni non governative ambientaliste molto serie. Gli attivisti hanno analizzato la lista ONU dei partecipanti alle 2 settimane di lavori, cominciati lo scorso 31 ottobre, e dagli elenchi visionati sarebbe emerso che ben 503 delegati sono lobbisti delle più grandi società dell'energia fossile. Una delegazione, questa, oltre 20 volte più numerosa di quella del paese più rappresentato alla COP26. Fra i 503 lobbisti, inseriti anche in 27 delegazioni nazionali, si annoverebbero sia rappresentanti diretti di almeno 100 grandi società, tra le quali l'anglo-olandese Shell e la russa Gazprom, sia esponenti di compagnie che ne tutelano o promuovono gli interessi. Intanto, Simon Kefe, ministro degli esteri dell'arcipelago di Tuvalu, un pugno di atolli che si trova a metà strada tra le Hawaii e l'Australia, si è rivolto alla COP26 di Glasgow con un appello su YouTube che merita di essere ascoltato integralmente. «Non possiamo aspettare i discorsi», ha detto Kefe, «quando il livello del mare sta salendo tutto intorno a noi». L'inquadratura, nel video, passa in campo lungo e lunghissimo e si capisce subito perché a Tuvalu non hanno tempo da perdere. I stare firm for a soil, little rock and falls, and they gizzy, dress me up in stitsy, and it's round the corner where I shelter, is something a schism, the living out of style, if you believe or deceive, common sense says shouldn't receive, let me take you down the corridors of my life, and when you walk to, you walk to your preference. To answer till I take further evidence. I seem to need a reference to get residence. A reference to your preference to say I'm a good neighbor. I trust to judge you from my labor. The bottom ensures my good behavior. The constant struggle ensures my insanity. Passing the evenings ensures the struggle for my family. We're hungry, beware of our appetite. Distant drums ringing news of a kill tonight. The kill which I share with my passengers. We take our fill, take our fill, take our fill. I stand firm for our soil. Little rock and falls and they juice me. Dress me up in stitsy. Confused by different memories. Details of Asian remedies. Conversations of what should become of enemies. My brain thinks bomb like. Prima di chiudere, due notizie su zoo e circo. 8 cammelli e un lama sono stati trovati per le vie di Madrid mentre passeggiavano dopo essere fuggiti dal circo. Il proprietario della struttura ha accusato gli animalisti di sabotaggio. Il manager del circo infatti avrebbe detto all'AFP che il filo elettrico attorno alla gabbia degli animali è stato ritrovato tagliato. Ultima notizia, reggetevi forte perché quello che è accaduto allo zoo cinese di Heng Shui ha dell'incredibile. Eppure è tutto vero e documentato dalle stesse telecamere della struttura presenti sul posto per filmare l'evento. Nelle immagini si vede il piccolo Banjin, un cucciolo di macaco che, agghindato come un essere umano e seduto su una panca, viene costretto a fumare una sigaretta, offerta da qualcuno che, dopo avergliela infilata in bocca, la accende. A quel punto, fosse un cartone animato di fantasia, la scena potrebbe anche eventualmente far ridere. Il piccolo macaco sgrana gli occhi, sembra tirare grandi boccate una dietro l'altra, poi, sfiancato, sembra svenire e si accascia, lasciandosi cadere all'indietro, mentre una voce femminile avverte sui pericoli derivanti dal fumo. My brain thinks bomb like, bomb like. My brain thinks bomb like, bomb like, bomb like. Ma questo non è un film. Dopo la valanga di critiche, lo zoo ha dovuto tentare di giustificarsi, però le argomentazioni sono state decisamente deboli e fuori luogo. Fuori luogo, come quel piccolo macaco che sarebbe rimasto molto più volentieri nel suo habitat con la sua famiglia di appartenenza. Concludere questa sfilza di notizie non proprio entusiasmanti, abbiamo chiesto al nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni di proporci qualcosa di dolce possibilmente collegandolo a uno dei temi trattati in questa puntata. Vediamo se ci è riuscito anche questa volta. Ricordiamo che è in vendita l'ultimo libro di ricette di Gabriele Palloni, edito da Newton Compton. Il titolo è Se vuoi vivere sano, cucina vegano. In una delle tante scene cult di quel piccolo capolavoro della cinematografia che è Little Miss Sunshine, si parla di un piatto che il menù definisce alla mode, cioè servito con del gelato. Quindi, per rendere omaggio alla stilista Stella McCartney, ho pensato di raccontarvi la ricetta delle crêpes Suzette alla mode. Gli ingredienti per 4 persone sono, per le crêpes, 50 g di farina di ceci, 50 g di farina zero, 300 ml di latte vegetale, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, della vaniglia, un cucchiaio di zucchero di canna, un pizzico di sale, un pizzico di curcuma in polvere e una scorza d'arancia grattugiata. Per la salsa, succo e scorza di 3 arance, il succo di un limone, 150 ml di Grand Marnier o altro liquore all'arancia, 100 g di zucchero di canna, un cucchiaio di olio di semi di girasole, del gelato vegetale alla vaniglia. Preparate l'impasto delle crispelle, stemperate la farina di ceci e la farina zero assieme al latte vegetale. Unite la vaniglia, la curcuma, la scorza d'arancio, lo zucchero, il pizzico di sale e l'olio extravergine. Lavorate bene con una frusta e lasciate riposare una mezz'ora a temperatura ambiente. Trascorso il tempo di riposo, recuperate l'impasto e con un'apposita padella spennellata con pochissimo olio di semi di girasole realizzate delle crepe. Ogni volta che una crepe sarà pronta, piegatela a fazzoletto e adagiatela su di un piatto. Adesso preparate la salsa. Filtrate il succo delle arance e del limone e a parte grattugiate finemente la scorza di tutte e tre le arance. In una padella scaldate l'olio di semi di girasole assieme allo zucchero di canna. Quando quest'ultimo inizierà a sciogliersi, unite la scorza di arancia e qualche attimo dopo il succo dei due agrumi. Fate cuocere la salsa a fuoco basso fino a quando lo zucchero non si sarà ben sciolto, quindi immergete le crespelle nella salsa. A parte scaldate il liquore, versatelo nella padella con le crespelle e con cautela fatelo fiammare. Coprite col coperchio per spegnere la fiamma e disponete le crepes sui piatti coprendo con la salsa. Servitele calde e alla mode con una o più palline di gelato vegetale alla vaniglia. Questa puntata è tutto, vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione al completo, composta da Valentina Reggioli, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco, Anna Granata, Gianluca Masala, Francesco Panier e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 516 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.